Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Il giardino dei Finzi Contini, di Giorgio Bassani. Uscita la signora alla Lumia, mi guardai attorno. Mi trovavo in una stanza spaziosa, ma dal soffitto basso. Una stanza che serviva, evidentemente, da camera da letto, da studio e da salottino. Erano le 8 passate. I raggi del tramonto, penetrando dalla larga finestra orizzontale, illuminavano il pulviscolo dell'aria. Osservavo la suppellettile, il divano letto, mezzo divano, sormontato dalla parte del capo da un grosso guanciale bianco e coperto dalla parte dei piedi da una grama teluccia da pochi soldi, a fiori rossi, il tavolino nero, stile moresco, posto fra il divano e l'unica poltrona di finta pelle su cui sedevo, i paralumi di pseudo pergamena collocati un po' dappertutto, l'apparecchio telefonico bianco che spiccava con chiare intenzioni di civetteria sul nero funebre di una malandata scrivania avvocatesca piena di cassetti, i banali quadretti a olio appesi alle pareti, e sebbene mi dicessi che aveva un bel coraggio il Giampi a storcere tanto il naso davanti ai mobili 900 di Alberto, possibile che il suo moralismo, che lo rendeva censore così rigoroso degli altri, gli consentisse poi tanta indulgenza nei riguardi di se stesso e delle proprie cose. D'un tratto, sentendomi stringere improvvisamente il cuore dal pensiero di Micol, era come se fosse stata lei stessa a stringermelo con la sua mano, rinnovai il solenne proposito di essere buono con Malnate, di non discutere più, di non litigare più. Quando ne fosse stata informata, Micol avrebbe tenuto conto anche di questo. Suonò lontana la sirena di uno degli zuccherifici di Ponte Lagoscuro. Subito dopo, un passo pesante fece scricchiolare la ghiaia del giardino. La voce del giudice insorse vicinissima, di là dalla parete. «Ehi, dottore», diceva con intonazione marcatamente nasale, «badi che in casa c'è un amico che l'aspetta». «Un amico?» chiese Malnate. «E chi è?» «Vada, vada», lo incoraggiò l'altro. «Ho detto un amico. Alto, grosso, più alto e più grosso che mai, forse anche per effetto del soffitto basso», Malnate entrò. «Ma no!» esclamò, sgranando gli occhi per lo stupore e aggiustandosi le lenti sul naso. Mi strinse vigorosamente la mano, mi batté varie volte su una spalla ed era molto strano per me, che da quando ci eravamo conosciuti l'avevo sempre avuto contro, ritrovarlo talmente gentile, premuroso, loquace. «Come mai?» mi chiedevo confuso. Che anche da parte sua fosse maturata la decisione di cambiare radicalmente registro nei miei confronti? Chissà. Certo è che adesso, a casa sua, in lui non c'era più nulla del duro contraddittore col quale avevo battagliato tante volte sotto gli attenti occhi di Alberto prima e poi anche di Micol. Mi era bastato vederlo e avevo capito. Fra noi, fuori di casa Finzi Contini, e pensare che negli ultimi tempi avevamo litigato al punto di offenderci e quasi di metterci le mani addosso, ogni ragione di contrasto era destinata a cadere, a dissolversi, come nebbia al sole. Frattanto, Malnate parlava, verboso e cordiale, in modo incredibile. Mi domandò se, attraversando il giardino, avessi incontrato il padrone di casa e se costui fosse stato cortese. Risposi di sì, che l'avevo incontrato, e descrissi ridendo la scena. Meno male. Seguitò informandomi del giudice e della moglie, senza darmi il tempo di avvertirlo che avevo conosciuto anche quest'ultima. «Ottime persone», disse, «quantunque nel complesso un po' rompiscatole nella loro concorde pretesa di proteggerlo contro le insidie e i pericoli del vasto mondo. Benché sicuramente antifascista, era un monarchico sfegatato, il signor giudice non voleva fastidi e perciò stava continuamente allerta, temendo che lui, nel quale dichiarava di riconoscere a fiuto un probabilissimo futuro cliente del tribunale speciale, non gli portasse in casa di nascosto dei tipi pericolosi, qualche ex confinato, qualche sorvegliato, qualche sovversivo. Quanto alla signora Edvige, Anche lei stava sempre allerta, passando giornate intere appollaiata dietro le fessure delle persiane del primo piano, o capitandogli alla porta alle ore più impensate, e perfino di notte, dopo che l'aveva udito rincasare. Ma le sue ansie erano di tutt'altra natura. Da buona ferrarese, perché era ferrarese la signora, nata Santini, conosceva molto bene le proprie galline, come diceva, cioè le donne sposate e nubili della città. A suo parere, un giovanotto solo, laureato, forestiero, fornito di appartamentino con ingresso indipendente, a Ferrara poteva dirsi rovinato. Le donne gli avrebbero ridotto alla colonna vertebrale un vero Osbeck. E lui? Lui aveva sempre fatto del suo meglio per rassicurarla, si capisce. Però era evidente, la signora Lalumia avrebbe trovato pace soltanto quando fosse riuscita a trasformarlo in un triste dozzinante in canottiera, pantaloni del pigiama e ciabatte, col naso eternamente sopra le pentole di cucina. «Beh, in fondo, perché no?» obiettai. «Mi sembra di averti sentito spesso brontolare contro ristoranti e trattorie». «È vero», ammise con straordinaria arrendevolezza. «Un'arrendevolezza che non cessava di stupirmi. D'altra parte, è inutile. La libertà è senz'altro una gran bella cosa, ma se uno a un certo punto non trova dei limiti, e così dicendo mi strizzò l'occhio, dove si va a finire?» Cominciava a far buio. Malnate si alzò dal divano letto su cui si era sdraiato lungo disteso, andò ad accendere la luce, quindi passò in bagno. «Si sentiva la barba un po' lunga», disse dal bagno. «Gli davo il tempo di farsela? Dopo saremmo usciti in compagnia». Continuammo a conversare così, lui dal bagno, io dalla camera. Riferì che anche quel pomeriggio era stato a casa Finzi Contini, che ne veniva proprio adesso. Avevano giocato più di 2 ore, prima lui e Micol, poi lui e Alberto, infine tutti e tre assieme. «Mi piacevano le partite all'americana?» «Non molto», risposi. «Capisco», convenne. «Per te, che sai giocare, capisco che le americane non abbiano molto senso, però sono divertenti». «Chi ha vinto?» «L'americana?» «Sì». «Micol, naturalmente», ridacchiò. «Bravo chi la tiene, quella là. Anche in campo è un vero fulmine di guerra». Mi domandò poi perché da qualche giorno non mi fossi fatto più vivo. «Cos'ero, partito?» Ed io, ricordando quello che Micol mi aveva detto, e cioè che nessuno mi credeva quando, dopo ogni periodo di assenza, raccontavo di essere stato via, in viaggio, risposi che m'ero seccato, che spesso negli ultimi tempi avevo avuto l'impressione di non essere gradito, soprattutto a Micol, e che perciò avevo deciso di girare un po' al largo. «Ma cosa dici?» fece lui. «Secondo me Micol non ha niente contro di te. Sei sicuro di non sbagliarti?» «Sicurissimo». «Ma», sospirò. Non aggiunse altro, e anche io stetti zitto. Di lì a poco riapparve sulla soglia del bagno, sbarbato e sorridente. Si accorse che stavo esaminando i brutti quadri appesi alle pareti. «E allora?» chiese. «Cosa ne dici del mio trappolone? Non mi hai ancora esternato il tuo parere?» Sogghignava alla vecchia maniera, attendendo al varco la mia risposta, ma al tempo stesso glielo leggevo negli occhi, deciso a non infierire. «Ti invidio sinceramente», risposi. «Ho sempre sognato di avere anch'io qualcosa di simile a disposizione». Mi lanciò uno sguardo compiaciuto, grato. Poi disse che sì, anche lui si rendeva perfettamente conto dei limiti dei coniugi Lalumia in materia di gusto per l'arredamento, però il loro gusto, tipico della piccola borghesia, la quale, non per niente, osservò tra parentesi, costituisce il nervo, la spina dorsale della nazione, aveva pur sempre qualcosa di vivo, di vitale, di sano, e ciò in ragione diretta, probabilmente, della sua stessa banalità e volgarità. «Dopotutto gli oggetti non sono che oggetti», esclamò. «Perché farsene schiavi?» Guardassi a questo proposito Alberto, continuò. «Cavolo, a forza di circondarsi di cose squisite, perfette, senza errori, un giorno o l'altro anche lui sarebbe finito col diventare...» e si avviò verso l'uscio, senza terminare il discorso. «Come sta?» chiesi. M'ero alzato a mia volta e l'avevo raggiunto sulla soglia. «Chi?» «Alberto?» fece trasalendo. «Annuì». «Ma sì», seguitai. «Negli ultimi tempi mi è sembrato un po' giù, un po' sciupato. Non trovi? Ho l'impressione che non stia bene». Si strinse nelle spalle, quindi spense la luce. Mi precedette fuori nel buio e non pronunciò più parola fino al cancello, se non per rispondere a mezza strada al buonasera della signora Lalumia affacciata a una finestra e per propormi, appunto sul cancello, di andare a cena con lui, da Giovanni. Malnate, inutile illudersi. Non ignorava affatto la vera ragione per la quale mi tenevo lontano da casa Finzi Contini, come certo non ignorava, almeno fino a un dato segno, a che punto stessero effettivamente le relazioni fra me e Nicole. Non di meno, tanto io quanto lui evitavamo con perfetto accordo di affrontare nei nostri discorsi questi argomenti. Eravamo entrambi d'un riserbo e d'una delicatezza eccezionali. Ed io gli ero sinceramente grato che fingesse di credere a quanto, in proposito, gli avevo detto la prima sera, d'allora in poi astenendosi dal tornarci sopra, grato che si prestasse al mio gioco e mi secondasse. Ci vedevamo spessissimo, quasi ogni sera. Dai primi di luglio il caldo, divenuto a un tratto soffocante, aveva svuotato la città. Di solito ero io a andare da lui, tra le 7 e le 8. Quando non c'era, lo aspettavo pazientemente, intrattenuto magari dalle chiacchiere della signora Edvige, ma la maggior parte delle volte ce lo trovavo già, solo, sdraiato sul divano letto in canottiera, le mani intrecciate dietro la nuca e gli occhi fissi al soffitto, oppure seduto a scrivere una lettera alla madre, alla quale, scoprii, era unito da un affetto profondo, un po' esagerato. Comunque, appena arrivavo, si affrettava a chiudersi in bagno per radersi, dopodiché uscivamo assieme, essendo inteso che assieme avremmo anche cenato. Andavamo dal solito Giovanni, prendendo posto fuori, di fronte alle torri del castello, alte sopra le nostre teste, come pareti dolomitiche, e come queste, lambite sulle vette dall'ultima luce del giorno. Oppure ai Voltini, una trattoria fuori Portareno, sedendo ai cui tavoli, allineati sotto un leggero porticato esposto a mezzogiorno e aperto allora sulla campagna, era possibile spingere lo sguardo fino agli immensi prati dell'aeroporto. Nelle sere più calde, tuttavia, invece che dirigerci verso la città, ce ne allontanavamo lungo la bella strada di Ponte Lagoscuro, superavamo il ponte di ferro sul Po e, pedalando appaiati in cima all'argine, col fiume sulla destra e la campagna veneta sulla sinistra, raggiungevamo dopo altri 15 minuti, a mezza via tra Ponte Lagoscuro e Polesella, l'isolato cassone della Dogana Vecchia, celebre per l'anguilla fritta. Mangiavamo sempre molto lentamente. Restavamo a tavola fino a tardi, bevendo lambrusco e vinello di bosco e fumando la pipa. Nel caso però che avessimo cenato in città, a una certa ora posavamo i tovaglioli, pagavamo ognuno il proprio conto e quindi, tirandoci dietro le biciclette, cominciavamo a passeggiare su e giù per la Giovecca o lungo viale Cavour fino alla stazione. Corso Ercole I era sempre evitato in questi nostri notturni vagabondaggi. Era poi lui, in genere sulla mezzanotte, a offrirsi di riaccompagnarmi a casa. Dava un'occhiata all'orologio, annunciava che era tempo di filare a dormire. La sirena della fabbrica suonava per loro tecnici alle 8, è vero, ma alzarsi bisognava pur sempre alle 7, e per quanto insistessi a volte per riaccompagnarlo io, non c'era modo che me lo permettesse. L'ultima immagine che mi rimaneva di lui era invariabilmente la medesima. Fermo, in mezzo alla strada, a cavallo della bicicletta, stava lì ad aspettare che gli avessi chiuso ben bene il portone in faccia. Dopo mangiato, 2 o 3 sere, finimmo sui bastioni di Portareno, dove quell'estate, nello slargo sovrastante da una parte il gasometro e dall'altra Piazza Travaglio, aveva trovato posto un Luna Park. Si trattava di un Luna Park da 4 soldi, una mezza dozzina di baracche da tiro a segno, raccolte attorno al fungo di bigia tela rappezzata di un piccolo circo equestre. Il luogo mi attirava e mi commuoveva la melanconica società di povere prostitute, di giovinastri, di soldati, di miseri pederasti da periferia che lo frequentavano abitualmente. Citavo Apollinaire, citavo Ungaretti, e sebbene malnate, con l'aria un po' di chi è trascinato controvoglia, mi accusasse di crepuscolarismo deteriore, in fondo gli piaceva anche a lui, dopo che avevamo cenato ai Voltini, salire lassù, nel piazzale polveroso, sostare a mangiare una fetta d'anguria presso la lampada ad acetilene di un cocomeraio, o fare una mezz'ora di tiro a segno. Era un ottimo tiratore, il Giampi, alto e corpulento, distinto nella ben stirata sahariana di tela color crema che avevo cominciato a vedergli addosso fin dall'inizio dell'estate, calmissimo nel prendere la mira attraverso i grossi occhiali cerchiati di tartaruga, aveva evidentemente colpito la fantasia della dipinta e sboccata ragazza toscana, una specie di regina del posto, alla cui baracca, non appena spuntavamo fuori dalla scaletta di pietra che da Piazza Travaglio portava in cima al bastione, eravamo imperiosamente invitati a fermarci. Mentre malnate tirava, lei, la ragazza, non gli lesinava sarcastici complimenti a sfondo osceno, ai quali lui, dandole del tu, teneva testa con molto spirito, con la tranquilla, per me inimitabile disinvoltura di chi ha trascorso molte ore della prima giovinezza nei postriboli. Una sera d'agosto, particolarmente afosa, capitammo invece in un'arena all'aperto dove, ricordo, davano un film tedesco con la Christina Sederbaum. Eravamo entrati a spettacolo già iniziato e subito, appena seduto, m'ero messo a bisbigliare ironici commenti senza badare a malnate che mi ripeteva continuamente di stare attento, di piantarla, di bausciare, che tanto non ne valeva la pena. Aveva ragione da vendere. Difatti, levandosi a un tratto in piedi contro lo sfondo lattiginoso dello schermo, un tale della fila davanti alla nostra mi intimò minacciosamente di tacere. Ribattei con un insulto, l'altro gridò «Fora, boia d'un ebrei!» e contemporaneamente mi si buttò addosso, afferrandomi per il collo. E buon per me che malnate, senza dire una parola, fosse pronto a ricacciare con uno spintone il mio assalitore nella sua sedia e a trascinarmi via per un braccio prima ancora che le luci fossero riaccese. «Sei un vero cretino!» mi sgridò, non appena, in gran furia, avemmo recuperato le biciclette lasciate in deposito al posteggio. «E adesso, scià, gamba!» e prega il tuo Dio che quella carogna là abbia soltanto tirato a indovinare. Così, una dopo l'altra, passavamo le nostre serate, con l'aria sempre di congratularci a vicenda che riuscissimo a conversare senza accapigliarci, come quando Alberto era presente, e perciò non prendendo mai nemmeno in considerazione l'eventualità che anche lui, convocato con una semplice telefonata, potesse uscire di casa per unirsi a noi. I temi politici adesso li trascuravamo. Riposando entrambi nella certezza che Francia e Inghilterra, le cui missioni diplomatiche avevano raggiunto da tempo Mosca, avrebbero finito per intendersi con l'URSS, l'accordo da noi giudicato inevitabile avrebbe nello stesso tempo salvato l'indipendenza della Polonia e la pace e provocato di conseguenza, insieme alla fine del patto d'acciaio, la caduta almeno di Mussolini, adesso era di letteratura e di arte che parlavamo quasi sempre. Pur restando moderato nel tono, senza mai eccedere nella polemica, d'altronde lui di arte, affermava, ne capiva fino a un certo punto, non era questo il suo mestiere. Malnate si manteneva rigido nel negare in blocco ciò che più amavo. Eliot come Montale, García Lorca come Jesenin. Mi ascoltava declamare commosso «Non chiederci la parola che squadri da ogni lato» di Montale, o brani del Lamento per Ignazio di Lorca. E invano io speravo ogni volta di averlo scaldato, di averlo convertito al mio gusto. Scuotendo il capo diceva che no, che a lui il ciò che non siamo, ciò che non vogliamo di Montale, lo lasciava freddo, indifferente. La vera poesia, non potendo fondarsi sulla negazione, lasciassi stare Leopardi, per carità. Leopardi era un'altra cosa, e poi aveva scritto La Ginestra, non me ne dimenticassi, ma al contrario sull'affermazione, sul sì, che il poeta in ultima analisi non può non levare contro la natura ostile e la morte. Neppure i quadri di Morandi lo persuadevano, diceva, cose fini, indubbiamente delicate, ma secondo lui troppo individuali, troppo soggettive e disancorate. La paura della realtà, la paura di sbagliare, ecco ciò che esprimevano in fondo le nature morte di Morandi, i suoi famosi quadri di bottiglie e di fiorellini. E la paura, anche in arte, è sempre stata una pessima consigliera. Al che, non senza esecrarlo in segreto, io non trovavo mai argomento da opporre. Il pensiero che l'indomani pomeriggio lui, il fortunato, avrebbe certamente veduto Alberto e Micol e parlato forse di me con loro, bastava a farmi dimettere ogni velleità di ribellione, a costringermi dentro il mio guscio. Ciò nonostante, mordevo il freno. Un'altra sera, tuttavia, non tanto perché ci tenessi a farmi bello ai suoi occhi, ma chissà, spinto forse dal vago bisogno di confessarmi, di vuotare il sacco, che da tempo sentivo urgermi dentro, cedetti alla tentazione di recitargli una mia poesia. L'avevo scritta in treno, tornando da Bologna dopo la discussione della tesi di laurea, e sebbene avessi continuato a illudermi per qualche settimana che riflettesse fedelmente la mia profonda desolazione di quei giorni, l'orrore che per me stesso avevo provato allora, adesso, a mano che la dicevo a malnate, ne vedevo ben chiare, con disagio più che con sgomento, tutta la falsità, tutta la letterarietà. Camminavamo lungo la Giovecca, laggiù, dalle parti della prospettiva, di là dalla quale il buio della campagna era fitto, una specie di muraglia nera. Declamavo lentamente, sforzandomi di porre in evidenza il ritmo, caricando di pathos la voce nel tentativo di far passare per buona la mia povera merce avariata, ma sempre più convinto, via via che mi avvicinavo alla chiusa, dell'inevitabile fallimento della mia esibizione. Viceversa, mi sbagliavo. Non appena ebbi finito, Malnate mi fissò con straordinaria serietà. Quindi, lasciandomi a bocca aperta, mi assicurò che la poesia gli era piaciuta molto, moltissimo. Mi pregò di recitargliela una seconda volta, cosa che feci immediatamente. Dopodiché mi dichiarò che, a suo modesto avviso, la mia lirica da sola valeva più di tutti i penosi conati di Montale e di Ungaretti messi assieme. Ci sentiva dentro un dolore vero, un impegno morale assolutamente nuovo, autentico. Era sincero? Malnate? Almeno in quell'occasione direi di sì. Certo che, imparati in breve i miei versi a memoria, li citava di continuo, sostenendo come in essi fosse possibile intravedere una apertura per una poesia quale l'italiana contemporanea ferma nelle aride secche del calligrafismo e dell'ermetismo. Quanto a me, non mi vergogno a confessare che lo lasciavo dire senza smentirlo. Di fronte alle sue lodi iperboliche, mi limitavo ad azzardare ogni tanto qualche debole protesta, pieno il cuore di una gratitudine e di una speranza assai più commoventi che abbiette, a ripensarci. Sandro Lombardi ha letto Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.